qua, ci sei. E tu a ci sei? Io sono qua, l'ho messo a caricare insieme. Boh, io non ti vedo che sei qua. Ehi, chi la ti ha mandato? Ah, vero? Ehi, e cos'è che stai combinando? Niente, guardando lì, la TV. E tu cosa stai facendo? Sto guardando la TV, canale 5. Oh, io sto guardando canale 59, Alfa. Quelli che fanno i rifugi nei boschi, questo qua c'erano quelli che vivono in mezzo all'America, in Alaska. Adesso sono quelli che stanno facendo un rifugio. Ho cambiato canale poco fa, anch'io stavo guardando quel canale. Quando hanno trascinato quel grosso, cosa era, ragazzi? Però ho cambiato e che c'è lì, vuole vedere il canale 5. In effetti mi chiude avanti, mi piace. Costruiscono dei rifugi in mezzo ai boschi, roba così, anche con roba fresca che recuperano, capi? Noi mi piace assai, avanti i rifugi. Ogni tanto cambiano, va. Magari sono piccoli documentari che fanno vedere, ma cambiano, un po' dato una cosa, un po' dato l'altra, sono sempre così. Ma non mi piace, pagini chiude il rifugio, adesso stanno facendo un rifugio per una squadra di pesci. Non mi piace, adesso lo spettacolo. E cambia canale, se non ti piace quello ce ne so 3.000 canali, cazzo, a voglia canali. Ma ce l'avevo atteso dalla una alla tutti, mi ho guardato tutti i giornali, poi mi ho guardato Uomini e Donne, poi mi ho guardato quel programma Geo, che fa vedere documentari. E adesso avevo girato a questo programma, però quello che vivono nei ghiacci, e finito che mi piace, ma anche noi che mi piace assai. Quelli sì, ci sanno camminare con la neve, ragazzi, però qualche volta escono fuori anche loro, Li hai visti quegli articolati, ragazzi, grossi, ragazzi? Ogni tanto esce fuori qualcuno, ma comunque hai visto che lavoro che fanno? Uffa, mettilo dentro la tua pellet, quel portatile, magari caricami. Caricare il mio? Ma è sotto carica, ce l'ho qua davanti, è sotto carica. Ma scusa, ma perché non lo metti dalla notte? Io appena finisco di parlare lo metto a caricare, poi domani... si stacca del carico, è dura. Se tu lo lasci lì, è buttato, lo fa caricare e poi lo spegni la notte, no? Perché ieri sera c'avevo il cellulare sotto carica e poi andando a caricare la mia Londra e mi sono buttato e mi ho caricato il telefono. Poi stamattina me lo sono dimenticato di metterlo a caricare qui. Capito, mi hai? Ieri ero di visita e mi ha dato un altro poco di medicina. Che non fanno male, dai. E allora, per 10 giorni devo prendere l'antibiotico, poi delle bustine, dei medicini, per 10 giorni, e poi hai l'aerosol, poi altri medicini, e 4 devo andare al controllo. Perché mi ha detto che il cuore non mi ha tutto visitato. C'è anche Gio Maria, mia Luca. Chi è? Luca c'è, non lo so. Boh, fallo fino avanti. Non senta Gio Maria. Boh, io non lo sento. Come non lo sento? Non lo sento io, non lo sento. prova. Ciao, sei vera avanti, che adesso che non si sente, parla. Chi è che parla? La sentite. A chi? Senti, ma arriva, qua qua se ce l'ho squalciata, aspetta. Controlla, controlla. No, non gli arrivi, Gian Mariano. No, lo sento, Sta controllando lo squelci. Se arrivi a me non arrivi a esso, Basta spostarci. Perché basta spostarsi di 5 centimetri, non prende, capito? Io sono quarantino a parte dietro, Col gommino sono. E io sono col gommino in cucina, sempre nel solito posto. Arrivi bene, signora. E anche tu arrivi bene qua, a fondo scala. Sarà che non arrivi, che non arriva lui. Lo sento qua sempre. E capisci bene. Luca, guardato là lo squelo. Aspetta un attimo, io non so come si fa, aspetta. Guarda. Capito mia, Gian Mario. Cosa c'è? Che sta controllando. E cosa sta controllando? È la radio, adesso c'ha lo squelci alzato, Ah. Il moto bici è andato, Cosa? Il bici moto è andato, Non ho capito, In bicicletta è andato, con quella nuova. E a chi ma cusogo? Ah, c'è un guizzo freddo, non saranno. Dai che noi esci di bello, esci di freddo russa, saranno. Dai, c'è di me un die. Adesso già lo sento. Ma boh, strano, c'è uno squacciano. Adesso lo sento, meno male, capita. Ti porre le sacco, le guante, le puoi fare. Dai, calmo. Ci siamo di capo, grazie. Stava la giunta di un giardino che decì da raggio di maglia. Quando mi ha stato da galaccio, appunto un sacco. Che ci sta poco cammina. Vai lui. Ho capito perché ci gira la tenna a vuoto. Non va a girare tu, ma il gommino c'ha. Se lo giri, chi sta a girare sempre, pure la mia. Ah, ecco. Ci da vuoto, blocca. No, non blocca, lasciala stare. Se no, cioè il pezzo finale di sotto blocca. Però l'antenino, se lo giri, gira sempre. Così faccio un giro di bene all'interno. Io ho capito. Io rimango un attimino, ascolto che vuole farmi una doccia. Sentiamo dopo. Ehi, Gian Maria, lo senti adesso? Ehi, adesso lo sento. Sì, adesso ciao Gio Mario, adesso lo sento, prima non lo sentivo. Adesso sta arrivando bene. Palle! O vai di giù, Gio Mario. E a che occhio vai tu a fregargli le spalle? E tu sei adatto a fare queste cose? Io c'ho freddo. E tu sei pratico, capito? Visto che poi se ti piacciono a fregare, capito? E tanto sei volgare, dunque, lo graffiaggi tutto. Ho le mani dovevi fare. Le merebbe. Capito? Che bruzzato, ogni tanto colpo di bruzzante. Davvero? Bebo. Piccando, sa. Chi l'ha visto? Cioè, se no l'ho sentito. Ma deve essere lavorando, no? L'ho telefonato, non mi ha risposto. Sì, non l'ho sentito per niente, in genere. Mi manda qualche messaggio, così, qualche posto. Oggi niente, vuol dire fuori. Evidentemente impegnato. Evidentemente impegnato. Ti ne fai di Lagnoli? O è a Rucenda là. Vado giù 20 massi, 20 anni di zio da Goccia Longa. Appena prego, già ti vedo giù. Sta a fare un bufalone automatico, Edugato, bravissimo. Non te lo faccio vedere, fare un bufalone automatico. Ha ragione ad accendere il fuoco. Già l'ha visto il braciere che sta a fare. Abbaccia un tappo e cucina tutto, poi apre ed è tutto bello pronto, in 2 minuti. E allora, fallo anche tu, l'attrezzo così. No, già me l'ha detto che lo curia, come te dice, la di te cosa me ne vuoi? Io non hai che ha un esercito da mangiare, così tutta questa cosa. È troppo umano, che andava che ci li faccio. E allora manco mangia tanto la famiglia. Se più mano è più cosa avvicinata in mezzo, capito? E noi c'ha a rubone i tiboni, e poi fai tutta la gravigliata e andare. No, per me è troppo maturo di soggoso. Oh, è troppo grande. E andare che ci li faccio, a buia, ma... Aspetta il telefono. Eia! Grazie! Dimmi! E cosa si difende? Mangiando le calde arrosto. Cosa? Mangiando calde arrosto. Ah, però. La castagna mi è alluda. Dai, vai. Vai, vai, allora. E cosa faccio? Chi ci se la vedi? Tu ci sei assistata, va a bagno. E magna allora! Buona vita, eh! Oh yeah, bella brustolista! Davvero? Avrà mamma si galla! Sì, perché ho fatto un altro metodo! Le ho messe nel cuoci castagna, però invece di fargli il taglietto, gli ho stritolato appena appena la punta! E così si imbuffa! Cucina dentro e niente, la buccia subito e rimane morbida morbida. Ah, te, la cosa morbida ti piace, no? Morbida croccantina, mi. Dai, vai. Pappa, pappa. Ciao, Mari. Chi è? Signor Torre, se non sbaglio. Buonasera. Buonasera anche a lì. Ciao, grazie. Ecco preso. La cosa brustolita mi piace, Edu. Oi, oi, oi, non ti dai, no, con calma. Beh, abbai, chi c'è dorata? Abbami la mano, morbida, morbida. Hai te, detto, la cosa morbida mi piace. La dura, l'hai ciuffata, hai capito? Adesso mi piace la cosa morbida. Non lo gioco io, bubù. Cap, abbui, aggiungi un posto a tavola a me. Una siringa lunga 1 metro da bui. Non ti grillino. Prima di pranzo ce l'avevo, la glicemia 105. Stamattina la glicemia era 157. Prima di pranzo 105. Ma non devo abbandonare prima, no? Devo abbandonare da bui pranzo. Cosa succede? Vieni a muovere via 300. Quella me la misuro prima di cenare, lo so, no? No, 2 ore dopo il pranzo la devi misurare, a guardare, vedere quanto ce l'hai. Già lo so, ma io me la misuro prima di cena, 2 ore e 7 dopo, no? Fai 4 ore dopo, là. Fai, ho mangiato, erano le 3:10 quando ho finito. Dai, le 4, le 5, le 6, le 7 e mezzo, 4 ore là, 4 ore dopo. Sì, e te su Gio Marì, eh? E te su cosa ha fatto? Sai che c'è una misura 2 ore da buon pranzo, no? Ma non lo vedi, hai canto virà. Dai, dai. Allora, dopo pranzo, arrivare... E ora di mezz'orata era 117, oggi mi pare che era 113, non me la metto bene, così che è abbastanza regolare, dai, che è regolare, ma a me a 143, 146 è regolare un mattino. Cosa vuoi fare? Noi possiamo trattenerci un pochino, ma Edo... Adesso Graziano si mangia la cosa morbida e aumenta la glicemia. Grazie. Eia, eia, ehi, tu mi la domania, tu mi noi mi la domania, già ce l'ho la tentazione che sono lì che mi stanno guardando, imburicati nei tracci. Ma non ne mangio altre, là. Mi raccomando, fai da bravo, non mangiare, bevi molta acqua. Vedrai che ti calma. A voglia lei, ma mi faccio una buia, no, grazie. Mi ha dato il suo di una picchiata. Adesso ti misura di quattro di cui torna a dare un plumone. A chi cosa ha deciso ad animare? Tu, hai inteso, Ma ti lascio di tu io, devi staccare il mogromagnà. Devi stare calmo, stare lontano un po'. Oh mio, avanzo, ma ci ho mangiato una mera e sono tranquillo. Oh, ma non dal diabeto, dal pulmone volevo andare, il 4, però ieri di giusto. E allora mi devi tornare a controllare il giorno 4 a gennaio. A chi ha detto che rigori noi andiamo a fare questo, non rigori andiamo in mare. Fai forse andiamo in mare, fanno sopraccarichi di tutto quel mangiare che ci metti, fai forza. Sai che rugo l'esterolo, scrigni, e rugori si soffoca e perde colpi. No, mi ha prescritto per 10 giorni gli antibiotici. Aerosol, bustine più fiumicini e altri medicini che devo andare domani a mangiare dal dottore a ordinarli. E non lo so. Stavo cercando di più di altri medicini di dei buoni qui. Poi dai. No. Io ci ho messo su queste 3 pastiglie al giorno e boh. Se gliel'ho detto, la dici da quando mai mi devo prendere altre medicine, con tutte quelle che sto prendendo, per il cuore ne sto prendendo 2, anzi no, 3 mi sono cucinati, ancora ne dici, e mi ha detto sì, questo devi prendere per 10 giorni, va bene. Grazie, a cosa volere fare? Se prende a Gio Marì. Ok. A Bacchino, ho sentito letto. No, ancora no. Ancora non l'ho sentito. E entra verso le 7. Entrerà. No, sarà 8 e di no. Catta. A chi ha detto arriva a 16 che fa tirare andare in coso per operare. Ma se lo prende ancora, no? Se lo prende a posto lo microfono da tavolo per la batteria, boh? Ah, e dire dopo che a me vi consiglio, ne faccio 4. Andiamo. E allora, vero Grazia? E allora, va, via. E che microfono si deve smontare? Quello da tavolo. Deve guardare se la batteria era buona o se è ossidata, boh. E beh, se non la controlla, chi sta da quando viene questa batteria? Cioè Maria una volta ha già messo un coso di porta batteria, era tutta ossidata. E allora che funzionava la roba a te, di vino Giovanni. Vuol dire che ancora non era, no, faceva contatto, ma se più la lasciava di più, da voi non faceva più contatto, da voi si sciogliva e bruciava tutti i contatti, capito? Bisogna stare attenti per le batterie, che si bruciano i contatti, da voi gli anelli non servono più, e da voi cosa fai? Era quel microfono tuo in magazzino da te, non ti rammenti, che era tutta ossidata la batteria, bruciata era. Tu mi hai già avuto così, metti capo di controllare le funzioni di CPP ed è ossidata, per carità, cazzo. Ora ci devo fare la bella tazza, cazzo. Cazzo. A tu ne più tre, a tutti tre la bella l'abbia fatta io. Cazzo. Da una batteria di questi quadrati. Da questo logo, mi ha giù fatta, giù fatto la ribattitura e funzionava sempre. Ma penso quando la capisci, la magazzina, che era tutta ossidata, che sta batteria, certo, sta d'ore. Chissà quanti anni viene questa batteria, 30 anni. Ma la batteria dura un anno, non di più. Poi si scarica e secondo quanto la lasci si uscita. Lo so, io infatti non ne lascio mai batterie dentro le cose a batteria, là. Ma lo so che fanno quel difetto lì, poi fuoriesce quel liquido dalla batteria e ti rovinisce la goccia. Visto l'hai, ho detto io che era così era. Ma io non ho giocato di batterie, infatti. Tanto non so quanto la tele mi ha appiccicato, però mi dice 5, faccio 5 microfoni senza la busta, per cui non ho ripartito da giocavati e non ho... Ma che so sta a rileggere, capito? Ma che da buon entrato di batteri si scioglie, quelle cose che c'hanno dentro, togli l'ossido e brucia tutto, ti pratica c'è pure un ferro, ti puoi immaginare. Perché lo corrode l'acido della batteria, lo bucca pure a me. No, io ce l'ho la batteria, va bene nel bucle, l'MP4. Nello Zodiac, però quello lì ogni tanto già lo usa e dunque te la controllo spesso, capito? E già è a posto. L'MP5 sta funzionando bene, sa, sì? Già l'hai sentito che funziona sempre. Cioè quasi ogni giorno facciamo funzionare. Si tratta di me già funziona, già. Tratta di me pure, cazzo, perché sono in campagna e mare filaggio 26 anni, filaggio, l'M600 dell'Intac, con il 3600, ma un bel danno, ma la batteria, mi pare che un anno e mezzo o due, la batteria, c'hai visto, comparato, ha già preso tutto, ha visto che funzionava, era funzionente. E la mattina ma che sia buona ancora, boh, strano è, non scaricarsi tu. Bisogna ogni tanto controllarli a vedere se hanno ossido, magari funziona, però che non vi sia ossido, umidità e ossido. No, che ne ha giocavate la batteria, tanto me l'abbiamo dimenticata veramente, però lasciate che sono parati, ha già preso tutto. A me si funzionava ancora e ha funzionato tutto quanto perfettamente. Allora però che c'è la batteria, la batteria non la giocava dal microfono, ma c'è anche un interruttore, capito? Se non accende l'interruttore non entra in funzione la batteria, capito? Però comunque non la giocava ma era ancora buona, un anno e mezzo minimo questa batteria. Ancora, mi pare che era a sette volte ancora. Se è così, bisogna sempre controllarle, le batterie. Perché sennò, quando si uscirà, bisogna tagliarne un cavo e rimettere tutto nuovo. Ma infatti, all'altro le lascio guardare le batterie, no? No, non ve le lascio, no. Tanto là usi solo un microfono normale e basta, no? Per apprezzare non lo intratto più. Da me così, parlo un po' con il microfono, già. E poi già mi sento ugualmente con il microfono normale, capito? Così è, grazie a tua, mi senti bene? A voglia! Io non ho più usato neanche MP5. l'MBP4 perché l'aveva abbinata allo Zodiac, adesso tutto completo, quindi non ha conosciuto. E che lo uso ogni tanto lo Zodiac, che funziona. E invece l'MBP5 l'ho conservato. Cosa mi vede che va a fare? Signor Idrati. Ehi, è burro, che l'ha toccato più. Non si sa che faccio un vista, è burro faccio l'MB4, parlo Zodiac, però no, no, non ha già attaccato più di chi sono. E cosa l'attacca a fare? A provarlo, ma è a funzione. Chi si risolvia che funziona sempre, pure se usassi 30 anni, chi si funziona sempre. La roba del prima si guasta mai, si può guastare la mamma, ma la roba vecchia, assi materiale vera, vero o no? Una volta sì, ma invece mi pare che un materiale c'è tutto diverso. Perché adesso fanno le cose in economia, capito? Ma tutto prima facevano come più perfetti, più buono, materiale buono, ma invece buono materiale andante, beh si guarda di un ampio e buono un altro, capito? Ecco, come tutte le cose, dai. Parla fila per esempio la televisione, se si guarda la televisione tu, se si può ci accorzare, se ci accorzi più a accorzarla che a pigliare la roba, tanto pare della birova che si andrà lampi, o no? Infatti è così, a me quando si fa c'è un televisore, ho bisogno di una lampa e me ne compare giù un altro. Allora, per carità, così è grazia. Prima la facevano la cosa perché ci lavoravano più con impegno, facevano le cose per durare, invece la ieri mano a mano ha cambiato generazioni, anni, ma cosa devo fare, una cosa che dura ma sempre, e dopo che la giubbata io non travaglio più da quei milani e posso lavarmi. Invece il vostro si dura di più poco e travaglio sempre, capito? Dalla messa da mezza. Sì, dalla messa da mezza. Il pochatti dice a Lucia e c'è, poco poco e se pande da davanti. Vabbè, ma Luca non entra più, ancora sotto la doccia . Sarà appucato con la saburetta. Cata, allora poi c'è liscio su boccia a me. Sì, mi sono burro, è che fosse per l'altro pazzesco, ma se stai nel camera sono ghiacciate. A me mi pare che tu la metti per la doccia, ti trucchi, ti rimuovi bene, con la pinzetta. Peggio di una femmina, a me è andata... Ma come ti fa a sapere che posso mettere in femmina? Mica in doccia, c'è boh. E questo bene mi va, Marina, e questo bene ci va, questo qui così bene va, questo rossetto mi sembra troppo rosso, di la verità. Guarda, hai indovinato tutto. Ciao, Tore. Ciao. Ma Luca. Stammi bene. È tanto, te ne grazie non lo siamo disegni, boh, ma qua tu lo sai che sono disegni. Lo devi capire a Graziano, come... Ma secondo me va un inizio di Alzheimer, chissù. Ma non lo so, no. A me bongo in mezzo, basti così io. Vittore di poche parole, lì, bello bene, digli dottore, digli a metà. Ah, a me buone e mezzo, a me non dici se cose, non ne voglio sapere, vero Gianmarì? Di vino che sta in campagna, caccia, ma Graziano non lo sa però, chissà cosa sa Edu. Mi basta anche su caccia, qui c'è su manzano, quindi, ma andava così. Su di che io, io Graziano. Poi del berretto mi. Ehi, diglielo tu Luca, questi ragazzi. Allora, perché tu grazie, non sei un poco femminuccia, dai. Non lo dire, no, non dire no perché non ti credo. Anche tu non sei un poco femminuccia, dai, ammettilo. Ma non è che so come sei tu, no, lì davanti allo specchio, prova, riprova, Ecco, adesso facciamo un pedo, vedi un po', sono in capo viaggio, boh. Tu sei troppo perfettina, Tore, diglielo tu. Ah, e cosa vuoi che gli dica io? Che sta di me? Insomma, chi non mi so che assai ad all'altra di picchi. Buona barossa castagna, Maria, tanto si rammagna da non mattessimi. Pensa un poco. Come ti ascolta la buddita ragazza? No, e la casa non ha visto pure tutti. Ma tu ci vuoi fare massicata? Cos'è lui? Aggiunto ci vuoi massicata tu. Guarda che sono metodo rimane morbida morbida, bello bene. Sì, ma forse era Isa Castagna che prende i ributri, capito? I sarruia, via itta, dietro, finne. Chi sa è grazia che morbida morbida? No, questa la raccoglie un signore che abita a Sant'Orsola. Una di Anda, non so da ogni Anda, insomma, in un paesello, in campagna. Mi faccio un bel poco da voi se la vendi a 5 euro. Una castagna ti crema un capo, bianca bianca, ma buona, proprio buona. Però per uscire morbide fate così. Invece di fare il taglio come facevo sempre. Io taglio solo la punta della castagna, no, un pezzettino, la punta proprio. Tipo una cucina, quando così si, il buricheggio da voi, il traccio si gonfiano e rimangono morbide dentro, capito? E adesso tutta la vedi così. Capito, Aito, visto? E tu castagna non le mani? Non siamo tutti precisi, no, Giammarai. Cazzo, non siamo tutti precisi. Quindi dobbiamo far così. Allora, la castagna, non lo so, io prima li facevo il taglio, il classico taglio, con un buchetto e la bugna. Poi però, sono morbide, mi devi tagliare appena retta la punta della castagna, la buccia, appena retta, un tagliettino piccolino. La scappelli brutti. E le buone così da voi non posso buscarli. Quando lo vedi che ci sono un piatto, mi rivolgo in buchetto e li dai. E di cosa succede? Si gonfia e invece la buccia entra. E da rimane morbida morbida tra i. Ha visto, Airo? E tu non le fai così? Tu come le facci? Come le fai le cazzate? Chi si scioglie le brocche in bocca? Ma adesso, mica sto scherzando, va bene, se tu ne tagli solo la punta, ma piccolino, la punta della castagna. Se ce li hai, fai la prova e non vedi. A chi leva senza dreggio, si gonfieggia, l'ammorbidisce e rimane sempre morbida, così è grazia. Da voi che andate a busciarla, la buscia tu la devi drappare, se no non vi busciano. Magari Eva, leva di uso della castagna che va in sé, nel cuoci castagne le buona e la russi russi. Una volta che vedi che si sono gonfiate, gli rivolgo il buricheggio in un tratto di danni. Dopo di un quarto d'ora ne prendi una e ne esce la buccia intera e dentro la castagna è puntegna e morbida morbida. Quelle le ho fatte ieri e sono ancora morbide morbide. Hai capito lui come lo fa Grazia? E ce la mangia morbida morbida. Abbia da Edo. Dai, dove ce la mangia così? E rimane tutto il sapore all'interno della buccia della castagna, capito? Non si evaporizza. Evaporizza all'interno della castagna quando sta cucinando, o il burrito, o il forno. E poi fa quel lavoro lì. Quando li porichetti, chi gli è l'abbiglia a magnatina, lì ce la buccia entra. Ed è ben adorata all'interno. Ma tu si va a cacciare, a tirare su questo boccato, lo frisciolo, boccato, qui ci vai tu? Quello lì, mi la già rimuso a sola, se lo metto a posto. Quello lì, guru male così lì. Ogni papà, ogni porro, oppure il Natale, un burrito. Accende il gas e le metti un po' di castagna sopra, buono un tappo. O se con piedi a cacca dura si mica a faccia. E le lasci un po'. Poi già le vedi, si gonfiano appena, no? Una volta che i vedi sono fatti così, li rivolgo i borghetti in un tratto, li dai un quarto d'ora, mezz'ora. Dopo la bimbi, si la buccia tre a detta, e porto la morbida rimane dentro. Impara, amico, impara. Non so come ti faccio croccante, è buona. Grazie. Quello fumo che fa, ti cucinando così, catta, grazie. Catta, fumi che c'è la casa, ragazzi. Grazie. Ma fai che fumo non è fa, ma che fumo fa? Ma... Grazie. Dimmi. Se vai, si comini a euro. Vai in Croazia, ti poni i denti sia sotto che sopra, fissi, hanno dentiera, fissi. No, guarda che anche qua a Sassari adesso gli fanno, per quel prezzo che fanno la Croazia. Io però non ne posso mettere di quei denti fissi così, per via delle patologie che ho. Ah. Solo dentiera io posso mettere, fissi no, non fa. Se no, cambia via basti buoni, però mi sono informato e non li posso mettere fissi. I tasselli buoni di buoni di mio, oh, grazie. I tasselli loro ti mettono. E allora, già quando ero travaglieni, sopravvicavo uno che era per a me, in via Oriani. Due denti l'abbiamo pagato 7.000 euro, due denti, in porcellana solo, e passò 7.000 euro, baro, qui c'è pure di capo. Però mai avremmo ora noi tutta la dentiera ancora. Sì. grazie, chi ci era? Poteva via di là, va via, ma facili così, non aveva i pesi. Purtroppo. No, ha strisciato cambiali, la dici tu sei fuori di gambe, sei tutto male, ma ti pare molto pagato. Tu hai detto 7.000 euro. Ma vai, vai, per carità. Adesso ti danti i rivescini con 7.000 euro. Dimmi lo giù, Gian Mario. Già lo grivi. Già lo grivi. Ma lo faccio chi ce l'ha voi, no? Io la gittesio, sono andato a chità, sì, tutto andava bene, sono stati 15 di chitani, finché non si sono guarite tutte la questione, e da voi deve andare a controllo. Ogni due o tre mesi deve andare a controllo, con la calcia di lei, quindi a mandare a chità a controllarsi. Cazzo. Mentre i nonchi li facili e a controllare per niente a controllarti. E allora, tutti i vostri devono viaggiare con sciacca la zuglia, pagarsi l'albergo che c'è di Nichità, e capace di dire che la di non so liberi o una cosa con l'altra e devi soggiornare Nichità. Così ringrazio la Croazia. Non so macchino, hai capito, Luca? Vabbè, se lo fanno lo stesso prezzo qua è meglio, no? Così uno non va a spendere i soldi, poi se va a fare la visita là, la fa. Qua ce ne sono, c'è in via Roma, c'è in via Oriani, c'è in via Granci, in via Mendola, anche a pagare a poco se lo fanno, anche senza finanziaria, a puliti i denti fissi. A me mi danno una canta che mi mandano, ci voglio andare, però io non posso più per via di quelle patologie che ho. Solo la dentiera io posso usare, quella estraibile. Sì, vabbè, non penso che ti faccia un lavoro così costoso. Vabbè, no, aspetta, allora, come stai dicendo, lui dice che non fa il finanziario né niente. Io per stavolta il finanziario ho fatto, quando lui ha fatto il controllo, l'ha fatto più io ho fatto il controllo. Ma se lo bruci? E davo 50 euro. Se lo bruci? Ma vabbè. Ma cosa bruci che non lo bruci? Perché tanto devi sempre andare da lui ai controlli, a vedere, a fare, una volta anche che ti metti la dentiera fissa, come ti dici tu. Devi sempre andare in controlli, mica ti vuoi dietro quando andare in controlli, non è che vai la dentiera fissa, sì, appunto, dopo devi sempre andare, tutte le volte che te lo dice lui. E finiamo a tre zuppi di acqua. E per una volta che si è aperto la dentiera è tutto, che si dice venga al controllo fra 8 mesi, per dire, fra 8 mesi che andò a dire, torna a pagare, mica ti fai i visiti gravi. E magari gli interessa gliela smorza perché vuole fatto questo, vuole fatto quello, e torna a smorzare di là e non finì mai di pagare. Hai compreso come si funziona? In Croazia risparmia 5.000 euro, per dire 4.000 che risparmia. Se vogliono lavorare è meglio che se lo fanno qua, se lo fanno qua. Ah, scusa, c'è un cagliaritano che fa la pubblicità e di Cagliari se ne è andata a travagliare in Croazia. E le prende la pubblicità in Salvinia, andata a Est in Croazia. E anche non sarà per più a Cagliari lui qui, invece la pubblicità in Croazia. Ma che no, che grazie a, pagava troppi tassi, pagava, compresi, invece che in città non ne paga quasi nulla. Grazie a, ci viene da mangiare, è l'albergo, è tutto. No, la prima visita quando vai è tutto, che ti mettono lì, è tutto, pagano i giusti, come ti dici adesso. Tutto è incluso nel conto e se produce in barella, a chi pensi che paga niente, allora gli hanno giusti, ti hai incluso in quel conto. Capito, hai detto. La lettera mi staccava il cagnone a mandare e ci si muore gli ischi. Ma Graziano non ribiace, ha detto Iscia, no? Uia, per carità. Ma da persona giunta era o non avete fatto l'affare, grazie. Sì, era giunta già. Oh, i lapici. No, non avete fatto l'affare. No, meglio giunta. Vabbè. Oh, yeah. Ma è sorpreso andare dal dentista lì, di mangiare Sicilia. E io lo so che... E infatti è uguale il prezzo, anzi, gli dà rimasto di uno studio. Finisò. Sono affamato, lì. Vieni un po' che è stata affamata. In sacca di palle, ma mi pare che la questione... Uno sacca tutti l'altro. E allora, vai, meglio andare allo studio. Si controlla bene, pulito e tutto quanto, non è compreso. Ma lui, la lettera dei bonici tu? Sì, la lettera spaziale però. E com'è questa lettera spaziale? Pensi che li detti pure un cinese, ma... Spaziale che ho tipo i... O ti decini così, e poi ti decini i dolci, e poi ti trasformano e decini bene, spaziali. Ah, anche i cinesi vendono i denti. L'ho visto sul sito, nel telefono. Grazie, io sto andando a prendere la signora, ci sentiamo dopo, se vi siete ancora. D'accordo a te. Allora, in quel sito ci sono color oro, color rosa, sì, se tu te li caricai, bisogna. Bobo. Pure la lettera con i denti del bambino c'era. Io ho visto l'altro giorno, stavo guardando. Un bel di denti, oggi compreso. Vabbè, tanto le fatti sempre i denti. ma se si immaginisce, i materiali. Beh, non ripiglia nessuno, Giovanni. Non siamo ripirelli. A ripigliare. A socchilocchi, Beh, poi se c'è Bacchisio, Bacchisio per Eddie l'ufficio ha detto. Luca, l'altro giorno mandatatelo quella foto, quel video di quella ragazza con il cane scuro. Mandatatelo. Già me ne mangio uno o due di video tu. Quella schifosa che si faceva il cane suo, lingua e lingua, non se lo mandate. E poi lei ha chiuso la bocca. Ma senza batteria, eh. A tratti si è uscito, grazie a. Capito? Su cose, più vecchio di nonno, sul video. Cazzo, che schifosa quella, pucci. Ti ha borsicato la lingua al cagnolino. Ce ne fanno cavolate, per carità. Ma così è uno schifo, così mi bisogna rimarare. Si sarà già malata. Mi legge il tipo di staccato. Ciao Mario. Dime. Vieni qui stasera a ciuffare un cane. Vuol dire biati. Non è solo visto, mi sono un video, ma mi va un bel. Ma me la non mi rimando, non mi riposo, vado nella galleria di Cancelli, si cancellano su un pari. Ma capito. Ah vai, a zero di tutto questa batteria, gli ha dato si chiuda, Ma fa cosa ti ha serviato, invece poi ne sta con questo giocattolino, cazzo, Ogni tanto ci attratti. Attalai, cazzo, non la hai avuto, cazzo, fai all'ai, cazzo, attacca l'altro. Ma il cazzo già li sette più. Devo pigliare da salone, attaccarci lì dal lungo di l'antenna, ui. Allora, barbussetta. Al limite domani mi attacco l'altro direttamente. Fai così. Già per la mia l'idea ancora, pulirmi direttamente da chiunque la carne. Un attimino. Ma tu ce l'hai sempre scarico, grazie, Se le volte che parli ce l'hai sempre scarico. Per dire è grossa questa la batteria, Adesso tu quando smetti di modulare, prima metti a caricare, non c'è una presa, lo prendo per caricare. Anche domani lo puoi staccare, non gli fa niente, lo stacco per camarina l'indomani a me. No, già lo lascio attaccato fino a quando mi scorgo le 11 mezzanotte. Poi la mattina lo riattacco, lo stacco la notte. Ho capito. Può scoppiare la batteria se lo lascio attaccato, l'ho letto su internet. Sono fatti apposta, una volta che arriva quella e pum si blocca, non carica più. Si accende la spia verde e va in protezione. Penso che sia così come il telefono, dai. Eppure l'ho letto su internet, i pompieri in questo periodo. Staccate in ufficio! Sono qua, vai. Giorni Mari! Che scelto mi sei? Qua a cucina! Che sei bella va! Ava mi mangi una caramella! Allora, menta e veretti! Alla menta! Magna, magna! Cosa vuoi? Cosa fai? Magna caramella, se mangia le caramelle! Magna! È Luca! E già sono ginocchi! Mi sa che sta? No, sto guardando canale 5. Anche noi stiamo guardando il canale 5. Cosa fai a baitare? Per sempre chiccio, che si chiama, già gira chi sola. Ma dai, dai, è una cosa che ci piace, va. Sì, ma ti fa compagnia anche, già è bravo gli discorsi, già è un, come si dice, un bravo presentatore. Già va bene, dai. Io stavo in mezzo, ormai. Devo tutti due nomi, tutti che... Visione, ogni tanto mi sento, e cosa vuoi fare? Boh. Graziano mangia dei cavalieri, Tore è andato a pigliare la 50, Marchisio, cazzo, è stata a Ferrelli, lo fico. Ah, Giomari, ma li cammina questa bicicletta che avete piazzato, giusto? Ma chi? Ah, Giomari, la bicicletta. Non ho capito. Ah, c'è quello della portante. Poi c'è qualcuno che non sta uscendo. Mi ha chiesto Luca Giomari se la bicicletta ne cammina. Ho capito. Luca ti ha chiesto se la bicicletta, visto che è piazzato, cammina. Non credo cammina. E già dire la bicicletta gli faccia ad un pezzo. Ma deve farci a trovarlo. Ma chi saluta? Chi saluta? Cazzo, è la beccia che va via. E cosa hai facciato? Non puoi dare. No, l'attacco della batteria. E quello già lo vengono, lo spinotto. Eia, è la femmina però. Vabbè, ma che era attaccata alla batteria, chi c'è se ha gli fasciato? Cave di mira mi si è dimenticato ad staccare un cavo, ha distratato e ha gli fasciato. Ah, mi sembra che lo vendono lo stesso dove vendono le biciclette. Cos'è rotto, Giomari? Quello che ha attaccato alla batteria, lo spinotto, non lo spinotto, lo spinotto, lo mascio. A che la femmina ve la rugavo, no? Sì, la mattina per un mascio, si rugavo. E chi si è attaccato la mattina si è fasciato, e la capetta che la carica, fa caricarla, ha distrattato un rivoli a scia, c'è un colpo più forte, e si è fasciata. Mi pare che naggiù di chi siete di voi, naggiù quanti di voi, se un mascio. Mi sembra che i computer ce l'hanno così, mi sembra, quelli lì. Quanti ne vuoi ne ho? Sono staccato da poco. So ti do l'alimentatore, ha detto lo stacchi, ma ce l'ho già anche staccato. Solo voi, dimmi quando, non ne ho problemi. Ne ho, tranquillo. La città Luca, sì, mi ha regalato malasera, così che... Eventualmente non mi dai altre domande, Luca, capito? Ma Luca è un caso patologico, qua c'è la figlia Luca. Che Luca è strano, boh. Sto capito già le cicogiare cristiane, per cui non ti devo preoccupare. Bisogna andare sempre avanti, mai avarito, Luca. Capito? Sì, no, hai ragione, perché sta... Hai sbagliato un attimo, dai, carico e sbaglia. Ma hai sbagliato, grazie a tu. Un bagno molto. Vero, ma stessi. Penso che sbagliamo tutti. O prima o poi un sbaglio ci fa sempre qua. Ma se ha tutte le cose da fare, ma allora è finito il colpo. Così è. Sbagliare è umano. E sbagliando si impara. Allora, così bisogna fare. Il paese è per adoranzi. Tutti i cosi vari si arrivano sì, a far carità. Tutti zitti tu, vai. Sono cose che fanno le pasta di arricchiare. Va bene, a caso non ce l'ha, già ne ho, guarda, ne ho, quanti ne vuoi? Eventualmente vuol dire che ci farò un fischio se non ce l'ha lui, capito? Così che se ce l'hai attacchiamo domani sera quando viene, ci attacchiamo, faccia vedere, non mi piace a vedere, faccia il tuo. Dica di mai andare lo coppareggio, pensi che sei sempre, no, dice mi pare il bilancio. Non c'è problema, lo sai. Io ne ho quasi chiamato di femmina. Ma perché? Ma forse mi devi usare la batteria a caricarla, non voglio caricarla sta casa. Ma l'ha capito, non la voglio caricare, ma se ti desideri è forzarla, capito? Ah, e il garage non fa a caricare. Sì, si può caricare a vendresti pure, capito? Però la giocavata è... Dice che mi sta dai cavalli di Saccaluca, poi è distrattato e è passato su di sicuro. Ah, non è una cosa grave, non è successo niente. Dica, voi lo vedete, va due liti, è messo, boh. Sta girando i pezzi, e i pezzi nuovi, i liti di viso, e sta a posto, boh. E invece a me mi serve Luca. A chi mi sei bruciato, mi ha divulgato la pentolina, il motorino dell'aspiratore che c'è in cucina. Non è più di quei motorini con la ventola attaccata. Quello che aspira l'aria, come quelli della cassa. Ma per cosa ti serve? A metterlo nel buco in cucina dove c'è il tubo, no? Io quello lo accendo. Quando scolo la pasta che sale il vapore c'è il buco, attacco la pentola e si risucchia tutto il vapore, capito? Si è bruciata le mani e oggi mi ha smontato la pentola e invece è bruciata. Perché evidentemente ci hanno lasciato il interruttore acceso e si è bruciata. No. Marina se l'ha comprata nuova la cappa. Non so se è quella lì la vendo, se mi stai dicendo che è quella, boh, non lo so. Comunque se l'ha comprata nuova la cappa, capito, grazie. Non la cappa, no, è un motorino come... Vabbè, già ce l'ha la bruciata, domani mi faccio un salto e me la compro, già ce l'ha la cassa. Però c'è il buco, ci sarà pure la Marina lì, c'è un buco. Lì ci va un vapore e aspira anche gli odori quando fa il fritto, capito? Accendi quella e aspira tutto fuori. Eia, già ho capito quale, già abbiamo anche noi il buco lì nel muro, già ce l'abbiamo pure noi, uguale. So che Maria non ne ha tubo, lo dobbiamo mettere. Metto tutti i luci, era già predisposto quello. C'è il buco con dentro, c'è la parte dentro. Io vi l'ho cambiato due volte solo. E questo qui l'avevo recuperato, e però deve essere, ci hanno lasciato l'interruttore. Qual è la situazione, capito? No, si spegne quando rimane un bene, quando è sotto carico. Perché bisogna regolare di più, capito? Ma... Sì, dunque in 40 anni due volte ho cambiato il motore. Ah, il motore della cappa si è bruciato. No, della cappa. Dove c'è in cucina quel buco che c'è? E quella ventola lì. Ah. Ecco. Beh, non riesce a recuperare lui. Quello l'avevo recuperato, questo che si è bruciato. Dal posto recuperato dalla cappa vecchia, ma... Paghi 5 anni e me lo costerà 15 euro, Sì, adesso lo compresti tu, mi fai stare in presa. Almeno lo prendo dalla misura del tubo, perché quello che si è bruciato era più piccolo del tubo. La misura, fai quella misura. 113 è da 130, il foro del tubo. Dunque devo trovare il motivo. Ehi, vabbè, dai, io chiudo, grazie. Ci sentiamo domani, dai. Saluta in casa. Ok, salu, mi prendi tu, io chiudo, dai, saluto anche a te. Chiudo. A domani, se coincide. Ciao, Gio Maria, le bruce, buonanotte. Ciao, a domani. Fammi sapere nel caso, dai, ciao. Ciao Gio Maria, domani. E abbraccia a Rubi 2, sentiamo domani, da. Ciao, grazie anche a te, a domani, ciao. Ciao.